L'edificio alla sua destra era qualcosa di colossale, con una torre da una parte incredibilmente nuova, sotto una barba rada di edera ancora giovane, una piscina di marmo e più di 20 ettari di prato e giardino. Era il palazzo di Gatsby. Di là dalla baia, gli edifici bianchi della mondanissima East Egg luccicavano lungo il filo dell'acqua. E la storia di quell'estate incomincia praticamente con la sera che Nick Carraway vi andò a cenare in casa di Tom Buchanan. Daisy, sua moglie, era una sua cugina in seconda dal lato paterno. Tom apparteneva a una famiglia enormemente ricca. Perfino all'università la disinvoltura con la quale spendeva i quattrini era oggetto di biasimo. E così accadde che una calda sera piena di vento, Nick andò a East Egg. La loro casa era un giocondo palazzo coloniale georgiano, bianco e rosso, che dominava la baia. Il prato incominciava sulla spiaggia e si stendeva per mezzo chilometro fino all'ingresso principale della casa, scavalcando meridiane, sentieri lastricati di mattoni e giardini fiammeggianti, per innalzarsi poi, giunto alla fine, quasi sotto la spinta della corsa, in rampicanti vivaci. Tom Buchanan, vestito da cavallerizzo, era in piedi a gambe divaricate sulla veranda. Shakespeare! Tom! Come va il grande romanzo americano? Ah, avendo obbligazioni adesso, The Walter Chase. Senti, dopo cena tu e io andiamo in città. Non posso. Riprendiamo le vecchie scorribande. Lavoro domani. Niente scuse, tu vieni. La vita la devi dominare, Nick, se sei uomo. Era un uomo sui 30 anni, biondo paglia, massiccio, dalla bocca dura e dai modi altezzosi. Due occhi lucidi e arroganti gli avevano stampato in viso la capacità di dominio e gli davano l'aria di sporgersi continuamente in avanti con fare aggressivo. Nemmeno l'eleganza effeminata degli abiti da cavallerizzo riusciva a celare la forza enorme di quel corpo. Un corpo poderoso, un corpo crudele. Il solo oggetto assolutamente immobile nel salotto era un divano enorme, su cui erano posate, come nella navicella di un pallone frenato, due giovani donne. Erano vestite di bianco e con le gonne fluttuanti e drappeggiate, come se fossero appena ritornate da un breve volo intorno alla casa. Daisy Buchanan, la ragazza d'oro. Da lei emanava un calore mozzafiato, la promessa che non desiderava vedere nessun altro al mondo quanto te. Sentono che manco a Chicago? Sì, molto. Ti salutano almeno 10 persone. Che gioia! La voce di Daisy era il tipo di voce che l'orecchio segue in tutte le modulazioni, come se ogni parola fosse un raggruppamento di note che non verrà mai più ripetuto. Il suo viso era triste e bello, pieno di cose splendenti, ma la voce aveva una vitalità che gli uomini che l'avevano amata trovavano difficile dimenticare. Adoro vederti alla mia tavola, Nicky. Mi fai pensare a una rosa. Era un invito modulato, un ascoltami bisbigliato che prometteva per l'ora seguente cose gaie e interessanti. Jordan Baker, golfista molto famosa. Era la persona più scostante che avessi mai visto. Ho visto la sua faccia sulla copertina di Sporting Life. Nick Carraway. Ero sdraiata su quel sofà da non so più quanto tempo. Ehi, Nick, Daisy mi dice che tu abiti a West Egg, mescolato al branco di nuovi ricchi cafoni e arrivisti. La mia non è che una casupola da $80 al mese. La tua vita è adorabile. Conosco uno a West Egg. Io non conosco nessuno su quel lato della baia. Oh, non può non conoscere Gatsby. Gatsby? Quale Gatsby? Prima che Nick potesse rispondere che Gatsby era il suo vicino, fu annunciato il pranzo. Infilando imperiosamente il braccio rigido sotto il suo, Tom Buchanan lo spinse fuori dalla stanza come se spostasse una pedina sulla scacchiera. Snelle, languide, con le mani posate lievemente sui fianchi, le due giovani donne li precedettero in una veranda soffusa di rosa, aperta sul tramonto, dove quattro candele tremolavano sulla tavola nel vento sopito.

e fu a causa di questa fermata che si verificò il primo incontro di Nick Carraway con l'amante di Tom Buchanan. Un pomeriggio Nick andò a New York in treno con Tom e quando si fermarono sui mucchi di cenere, Tom balzò in piedi e lo costrinse a scendere. Lo seguì fino a una rimessa lungo una specie di strada principale. L'interno era squallido e nudo. La sola macchina visibile era il rottame coperto di polvere di una Ford rannicchiata in un angolo buio. Wilson, il proprietario, comparve sulla porta di uno sgabuzzino pulendosi le mani con uno straccio. Era un uomo biondo, smorto e anemico, vagamente bello. Quando li vide, un barlume umido di speranza gli balenò negli occhi azzurro chiaro. Salve, Wilson! Come vanno gli affari? Io non mi lamento. Allora, quando me la vende quella macchina? Il mio uomo ci sta ancora lavorando. Se la prende con calma, eh? Forse è meglio che la venda altrove. No, non volevo dire questo, no. Se si tratta d'affari, lei deve parlare con me. Dai, prendi delle sedie, così il signore può sedersi. Myrtle Wilson, la donna massiccia che aveva oscurato la luce della porta dello sgabuzzino, era sui 35 anni e leggermente grassa, ma aveva un portamento sensuale, proprio di certe donne. Il suo viso non rivelava il minimo accenno né il minimo barlume di bellezza, ma c'era in lei una vitalità subito percepibile, come se i muscoli le vibrassero di continuo sotto la pelle. Sorrise lentamente e, oltrepassando il marito come fosse un fantasma, strinse la mano di Tom guardandolo arrossire fino agli occhi. Ciao. Signor Buchanan, vuole un dolcetto? No, grazie. No. Signora Wilson, okay. Nick Carraway. Tanto piacere. Nick è scrittore? No, mediatore finanziario, a dire il vero. Voglio che tu prenda il prossimo treno. Adesso? Adesso. Love is blindness. You wrap the night around me. Oh, my heart, love is blindness. Yeah. I'm in a parked car on a crowded street, and I see my love made complete. The thread is ripping, the knot is slipping. Love is blindness. L'appartamento che Tom aveva affittato per Myrtle Wilson era all'ultimo piano di un palazzo. Il soggiorno era pieno fino alle porte di mobili decisamente troppo grandi, rivestiti di gobelin, per cui muoversi significava inciampare di continuo in scene di dame a passeggio nei giardini di Versailles. Seduta in grembo a Tom, la signora Wilson chiamò parecchie persone al telefono per invitarle quella sera. Poi finirono le sigarette e Nick andò a comprarne altre alla drogheria all'angolo. Al suo ritorno incominciarono ad arrivare gli invitati. Quella sera, nell'appartamento che Tom teneva per Myrtle, fluttuammo su una sorta di follia chimica, in preda a una disponibilità del cuore che aveva fragorosamente avviluppato tutti noi. E tutto a un tratto, New York cominciò a piacermi. Una volta verso mezzanotte, Tom Buchanan e la signora Wilson si trovarono in piedi l'uno di fronte all'altra, discutendo con voce incolore se la signora Wilson avesse o no il diritto di pronunciare il nome di Daisy. Non hai il diritto di pronunciare solo Daisy! Con un movimento abile e veloce, Tom Buchanan interruppe il suo ossessivo ripetere il nome di Daisy e le ruppe il naso col palmo della mano. Nelle notti estive a Nick giungeva la musica della casa del suo vicino. Nei suoi giardini azzurri uomini e donne andavano e venivano come falene fra bisbigli e champagne e stelle. Durante l'alta marea del pomeriggio i suoi ospiti si tuffavano dal trampolino o prendevano il sole sulla sabbia calda della spiaggia privata, mentre i suoi due motoscafi fendevano le acque dello stretto, rimorchiando acquaplani fra cascate di spuma. Nei giorni del weekend la sua Rolls Royce diventava un autobus e dalle 9 del mattino a notte avanzata trasportava compagnie intere dalla città e ritorno, mentre il suo furgoncino scorrazzava come un vivace insetto giallo per trovarsi all'arrivo di tutti i treni. Oh,